Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, una buona giornata a tutti. C'è un tema che qualche anno fa occupava costantemente le nostre trasmissioni. Di recente ce ne siamo occupati un po' meno perché sembrava essersi raffreddato, almeno nelle preoccupazioni dei consumatori, il tema dei costi dei conti correnti. A maggio c'è stata la grande novità, l'introduzione di un importante parametro di riferimento dei costi dei conti, vale a dire l'ISC, l'indice sintetico di costo, che ha voluto rafforzare, su esplicita richiesta della Banca d'Italia, la trasparenza nei rapporti fra banca e clienti. Poi c'è stata e c'è anzi ancora in corso la graduale entrata in vigore della direttiva europea sui sistemi di pagamento e su incassi e pagamenti, e insomma allora tutto il mondo sta continuando a cambiare. Sicuramente gli standard di comunicazione sono cambiati e migliorati, ma per ottemperare a tutte queste nuove disposizioni le banche hanno dovuto sopportare anche degli oneri che adesso, secondo alcuni osservatori giornalistici, si stanno scaricando di nuovo sui consumatori e di nuovo sui costi dei conti correnti. In particolare, gli aggravi riguarderebbero alcune voci, per esempio i bonifici fatti allo sportello. Qualche banca ha cominciato anche ad applicare degli oneri, ad esempio sulle domiciliazioni delle bollette, che sono sempre state gratuite. E allora, oggi facciamo un po' un punto della situazione, naturalmente raccogliendo molto volentieri le vostre testimonianze. Vi è arrivato l'ultimo estratto conto? Vi ha riservato qualche sorpresa? Avete discusso con la banca per cambiare le condizioni del vostro conto, ma non avete ottenuto granché? Allora raccontateci un po' la vostra situazione, noi la commenteremo questa mattina con i nostri ospiti. Intanto il collega del Sole 24 Ore Plus 24, Nicola Borsi. Nicola, buongiorno. Buongiorno Deborah e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro noi, devo anche fare questa ammissione, avevo così ripensato di ripescare di nuovo questo argomento del costo dei conti correnti perché mi aveva incuriosito quanto ha scoperto una collega di Corriere Economia, Alessandra Puato, appunto, che ha fatto il punto monitorando un po' di banche su quello che è successo in questi mesi da quando è stato introdotto l'indice sintetico di costo. Per la verità molte cose, Nicola, le aveva già scoperte molto tempo prima, ancora prima dell'estate, quindi proprio a ridosso dell'introduzione dell'ISC, cioè a ridosso successivo, un mese dopo l'introduzione di questo nuovo parametro, già qualche cambiamento sui costi dei conti si stava già avvertendo, quindi di questo gliene devo dare atto. Poi magari ci racconterà effettivamente in questi mesi come ha continuato a monitorare questo ambito. Ambito che viene monitorato sempre molto attentamente anche dalla nostra Francesca Tedeschi di Osservatorio Finanziario, che saluto. Francesca, buongiorno. Buongiorno Deborah. Che invece è la grande appassionata del tema online, quindi siccome quello è veramente un terreno che ancora molti pochi consumatori praticano per risparmiare anche sul costo del conto, allora ci faremo dire se anche questo ambito sta registrando qualche cambiamento interessante. Naturalmente dobbiamo sentire anche il versante bancario, siamo un po' in difficoltà con il collegamento telefonico, ma riusciremo sicuramente a recuperarlo. Tra l'altro lo abbiamo disturbato questa mattina tra un aeroporto ed un altro. Massimo Roccia, segretario generale del consorzio Patti Chiari, perché lo stesso Patti Chiari ha, come dire, monitorato un aumento del costo dei conti, quindi anche il sistema stesso insomma si sta rendendo conto che qualche cambiamento in peggio purtroppo c'è. 800 24 00 24, allora chiamate per raccontarci un po' le vostre esperienze, oppure raccontateci al 349-238-6666. Rapidamente la borsa stamattina negativa, dopo una partenza che era stata di tenore molto diverso. Parigi adesso perde lo 0,29%, Francoforte perde lo 0,35%, Londra meno 0,12%, Milano meno 0,43%. Su Milano pesano i titoli del settore bancario tutti, in particolar modo il Banco Popolare meno 3%, ma anche la Popolare di Milano perde il 3%. Per il Banco Popolare si è riaffacciata l'ipotesi di un aumento di capitale necessario per soddisfare evidentemente i requisiti patrimoniali. Il gruppo ieri è stato oggetto di un downgrade, di una riduzione di giudizio da parte dell'agenzia di rating Moody's. Per la Popolare di Milano invece a quanto pare c'è un'ispezione della Banca d'Italia in corso, ma in ogni caso per i titoli calo del 3%. Anche UbiBanca perde l'1,7%, Monte dei Paschi meno 1,26%, abbiamo anche Intesa in calo di un punto insieme ad A2A, a Bulgari e all'Ottomatica. Il segno più invece è su Saipem, più 1,81%, Prismian più 1,57%, Pirelli più 0,68%. Stamattina l'euro sul dollaro ha scavalcato la soglia di 1,30%. 36, soglia sulla quale si trova anche adesso. Oggi abbiamo avuto un nuovo record del franco svizzero sul dollaro, continua il rally dell'oro che ieri ha fissato il record a $1,310 l'oncia, naturalmente colpa del dollaro che sta continuando a scendere su tutte le altre divise, e quindi insomma giornate sempre piuttosto intense sui mercati, in particolar modo negli ultimi giorni su quelli valutari. Lasciamo da parte la borsa, andiamo al tema di oggi e rieccoci sui costi dei conti correnti. Dopo il carrello della spesa è arrivato il turno dei rincari allo sportello bancario. Tra maggio e settembre i prezzi dei servizi offerti dalle principali banche italiane alla propria clientela sembrano aver intrapreso la strada del rialzo. Sono più care le commissioni per i prelievi bancomat dallo sportello di un'altra banca, i bonifici ripetitivi e quelli via internet. Servono in media 4,5 euro per pagare una bolletta per cassa e 2,32 con addebito in conto. Ma è andando a guardare i costi delle operazioni in filiale che ci troviamo di fronte a veri e propri picchi. In alcuni casi si arriva a pagare fino a 8,5 euro per un bonifico per cassa e circa 6 per il pagamento delle utenze. Tra le cause, l'entrata in vigore della direttiva europea su incassi e pagamenti, che toglie alle banche i ricavi sui giorni di valuta, quelli che trascorrono tra l'addebito di un assegno, bonifico o altro prelievo e l'accredito all'avente diritto. Ma ad aggiungere oneri agli istituti è anche l'adeguamento alle direttive di Banca Italia, che per garantire maggiore trasparenza e quindi possibilità di confronto e scelta, dal 26 maggio li obbliga a calcolare e indicare l'ISC, l'indice sintetico del costo annuo di ogni conto corrente. La conseguenza, paradossale, è proprio l'aumento del costo dei depositi, che negli ultimi 4 mesi è salito in media dell'1,5%. I più colpiti sono i pensionati con operatività media, che usano cioè abbastanza frequentemente il conto, seguiti dalle famiglie. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Io sto notando che molti ascoltatori ci stanno chiamando per raccontarci un po' di del loro rapporto con la banca in termini molto generali. Oggi vorrei soffermarmi sul tema del costo del conto corrente, quindi lasciamo da parte per oggi, lo affrontiamo tantissime altre volte, il tema del mutuo o del prestito. Ritorniamo sul tema del costo del conto corrente perché, come vi dicevo, qualcuno sta già notando che qualcosa sta ricambiando in peggio. Gli oneri sui consumatori stanno tornando ad aumentare e perché le banche stanno temperando a tutta una serie di novità e legislative e comunitarie che evidentemente pesano su di loro. Tra l'altro, Nicola Borsi, comincio subito con te, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore. Noi abbiamo citato l'introduzione dell'indice sintetico di costo da maggio, l'entrata in vigore della direttiva europea su incassi e pagamenti, ma tu giustamente di recente sul Sole ricordavi anche come Basilea 3 potrebbe portare anche ad un rischio rincari per prestiti ma anche per altri servizi. Esatto, Deborah, la situazione è molto variegata e in costante movimento. Le normative si susseguono in maniera continua. L'introduzione dell'indice sintetico di costo è stato un passo avanti fondamentale per il settore, ma soprattutto per gli utenti, per i clienti delle banche, perché gli consente effettivamente con un unico numero indice di valutare qual è il costo reale del proprio rapporto bancario calcolato su base annua. Questo però cosa ha portato? Ha portato all'emersione di tutta una serie di balzelli che venivano applicati in maniera diversa da istituto a istituto e che spesso non apparivano immediatamente quando un cliente apriva un nuovo contratto. Questo quindi ha portato sicuramente a incrementare almeno nella rilevazione la voce del costo finale del conto. Poi ci sono tutta una serie di norme che si stanno succedendo e che arrivano una dietro l'altra, alcune che sono introdotte a livello comunitario, altre che sono il portato di decisioni nazionali, e alcune di queste hanno degli impatti molto rilevanti. Penso ad esempio a tutta la parte che con un termine tecnico si chiama compliance, cioè all'adeguamento dell'operatività degli istituti relativo alle norme antiriciclaggio, un tema che affronteremo anche sul prossimo numero di Plus, e che porta all'interno di una visione generale delle banche a cercare di scoraggiare l'uso del contante. Scoraggiare l'uso del contante in che modo? Rendendo più costoso l'accesso e l'utilizzo del contante da parte del cliente finale, aumentando il numero delle operazioni che i dipendenti bancari devono svolgere prima di erogare contante o di riceverlo, e quindi aumentando sostanzialmente il costo tanto per la banca quanto per l'utente finale. È ovvio che chi non ha dimestichezza con il cosiddetto denaro di plastica, come le carte di credito o il bancomat, chi ancor meno ha dimestichezza con i conti correnti online, chi utilizza somme contanti per tutta una serie di operazioni normali o routinarie, come il pagamento delle bollette, come il pagamento delle normali operazioni, come anche i depositi, si troverà a pagare delle somme crescenti che influiranno sul risk del proprio conto corrente. E infatti sono soprattutto le operazioni di cassa di cui sono aumentati particolarmente gli oneri, e comunque insomma va riconosciuto, anche se non ci piace moltissimo farlo, però dobbiamo farlo perché siamo anche dei giornalisti corretti, Nicola, in sostanza il sistema sta sopportando degli oneri di adeguamento a tutte le cose che ci stavi raccontando e che inevitabilmente alla fine si vanno a spalmare sugli utenti e sui consumatori. Poi c'è qualcuna, magari qualche banca, che se ne approfitta un po' di più, qualcuna che fa una applicazione di questi oneri magari ragionevole e contenuta, però di fatto poi sull'estratto conto qualche cambiamento lo notiamo. Massimo Roccia, segretario generale del Consorzio Patti Chiari, ancora buongiorno. E allora, ci racconta un po' da maggio ad oggi, da quando è avvenuta l'introduzione dell'indice sintetico di costo, di cui abbiamo raccontato appunto la ratio sostanzialmente, cosa è successo. So che questo riscontro sull'aumento degli oneri è stato fatto anche da Patti Chiari, ed effettivamente avete notato anche voi che su qualche profilo di consumo l'aumento degli oneri e dei costi del conto c'è stato. Ma i dati effettivi che noi monitoriamo giorno per giorno, prendendoli dal sito, dicono che più che un aumento è un'assoluta stabilità. Faccio degli esempi: il prezzo medio è passato da 130 a 132, quindi è cresciuto dello 0,5% praticamente, ma per un effetto molto preciso che credo sia giusto spiegare. Prima delle vacanze ci sono state molte campagne fatte dagli operatori che hanno deciso, credo anche per obiettivi commerciali propri, di lanciare dei prodotti con dei prezzi molto scontati. Queste offerte sono finite e quindi, siccome il sito di Patti Chiari riporta i prezzi dell'offerta in quel momento, i prezzi sono ritornati a quello che erano prima della campagna promozionale. Però pensare che una variazione dello 0, significa un aumento dei prezzi credo sia assolutamente non corretto. Quello che invece è importante, e riprendo il messaggio. No, però siccome sa, c'è sempre la questione della cosiddetta media di Trilussa, allora magari su qualche profilo effettivamente l'aumento è stato più consistente ed è stato compensato, ha compensato evidentemente qualche altra diminuzione, o no? Se vuole lo possiamo dire insieme. Certo. Sui giovani si è passato da 98 a 99, sulle famiglie con operatività bassa da 122 a 124, sulle famiglie con operatività media da 154 a 156. Quindi mi sembra che ci siano cose veramente marginali che sono il risultato tecnico della fine di alcune campagne. Più importante è per me il secondo punto introdotto con grande chiarezza dal dottor Borzi, e cioè l'inflazione collegata al denaro di plastica e all'uso delle operazioni fatte non per cassa. Faccio un solo esempio, credo chiaro per tutti quanti: il servizio più utilizzato e più comune anche nei confronti di costo è le commissioni sul bonifico. Ebbene, il bonifico costa oggi, se effettuato per cassa, 6,23 €, se effettuato con l'addebito in conto 3,58 €, se effettuato via internet 0,87 €, cioè l'operazione fatta via internet costa praticamente il 90% in meno di quanto costa per cassa. Incredibile. Questa è la strada che noi dobbiamo prendere, assolutamente dobbiamo fare di tutto, credo che anche la vostra testata lo stia facendo in modo egregio, per spiegare ai nostri clienti che le operazioni fatte per cassa a volte sono non solo costose, ma direi inutilmente costose, e quindi esatto, è molto più sicuro il denaro di plastica. E se il costo è così, non la devo interrompere perché devo andare in pausa, se il costo è così alto è perché banalmente lo si utilizza proprio come deterrente nell'utilizzo di certi canali. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire. Ritorniamo tra poco al tema del costo del conto correnti con le domande dei nostri ascoltatori, e poi devo sentire anche Francesca Tedeschi, a tra pochissimo. Salva Danaio ritorna questa mattina sul tema dei costi dei conti correnti. Abbiamo voluto fare un punto della situazione dopo che da maggio è stato introdotto, lo ricordiamo, l'indice sintetico di costo, e qualcuno ha denunciato che, oltre che per ottemperare a questa richiesta della Banca d'Italia, ma anche per altre novità legislative che sono intervenute negli ultimi tempi, in sostanza il sistema bancario sta sopportando tanti di quegli oneri che adesso gradualmente si stanno ricominciando un po' a scaricare sui consumatori. consumatori. Allora anche Patti Chiari ha monitorato questi aumenti che sono, dice ovviamente questo consorzio delle banche italiane, piuttosto contenute, più 0,5% in media, poi naturalmente nelle medie ci sono dei casi estremi e però tutto sembra ancora piuttosto contenuto. Detto questo, abbiamo di nuovo ribadito questa mattina come utilizzando il canale bancario online si possano ovviamente riscontrare risparmi notevoli, i costi dei conti non dico che siano allo zero perché nessuno ci regala niente, ma Francesca Tedeschi, è sicuramente un canale che chi ha scoperto difficilmente ha abbandonato, però forse un po' come per la moneta di plastica, come per la carta di pagamento, c'è uno, come dire, zoccolo duro di chi utilizza questi strumenti, ma certe barricate ancora qualcuno invece non riesce a superarle. Ci puoi fare tu un punto della situazione? Certo, allora, prima di tutto la lettura che ho fatto anch'io, sia della collega sia vostra, è un po', come dire, superficiale per due motivi. Il primo motivo è che ci sono banche virtuose e banche meno virtuose, come sempre noi chiamiamo cattive e buone, e quindi ci sono banche numerose anche che non hanno aumentato assolutamente niente, altre che invece hanno aumentato. Poi seconda cosa, come si diceva, anche gli aumenti sono soprattutto relativi alla filiale, quindi però operazioni di cassa, sì, operazioni di cassa. Quindi cosa succede? Che io lo chiamo aumento educativo. È un aumento educativo perché queste banche, tra l'altro, che hanno aumentato, sono le banche che hanno il numero di filiale più elevato. Filiali che stanno diventando via via, proprio per scelta di queste banche, automatizzate. Cioè hanno questi bancomat che fanno praticamente tutto, si può anche versare il contante o l'assegno, fare tutto da sé, pagare le bollette eccetera eccetera gratuitamente, basta avere un bancomat, che è gratuito anche questo, per tutti i conti, e quindi a questo punto diciamo che è un aumento educativo, quindi non lo vedo negativamente, anzi positivamente. Infatti si va verso non solo l'online ma proprio il fai da te. Il fai da te che vuol dire anche appunto andare in una filiale e fare tutto col bancomat, questa è una cosa. La seconda cosa è che il conto corrente sta, io dico una cosa un po' forte, sta sparendo, sta diventando più che altro un abbonamento ai servizi della banca, quindi l'abbonamento ai servizi va fatto in base alla persona, quindi al di là della lodevole statistica sociologica fatta da Patti Chiari suddividendo le varie persone in categorie, io direi che è un abbonamento fatto su misura, cioè chi va in banca oggi si abbona o a un conto molto semplice, addirittura nemmeno un conto, cioè una carta conto come ce ne sono ormai in tutte le banche, stanno andando benissimo, hanno fatto il più 12% l'anno scorso, dove non paghi nulla, paghi pochissimo e non hai neanche la tassa e fai qualsiasi cosa, oppure hai, se vuoi, come succede con le automobili, puoi avere la 500 o la Ferrari, quindi hai un abbonamento, lo chiamerei, a molti servizi, e chiaramente se prendi questo abbonamento con molti servizi pagherai di più. Tenete presente che adesso le banche stanno lavorando moltissimo a livello di loro piattaforma interna per offrire questi abbonamenti di molti servizi a prezzi molto contenuti. Ecco, questa è la cosa che posso dire io. No, tra l'altro io, Francesca, condivido pienamente tutto quello che dici, di fatto però ricordiamoci sempre che tu sei sicuramente rispetto alla banca un'interlocutrice molto attenta, molto evoluta, e non tutti siamo così. Io molto spesso porto questo esempio, magari della mia mamma piuttosto che di altre persone che conosco, che invece vedono nello sportello ancora, come dire, un rapporto estremamente tradizionale, e quindi ci si affida completamente, si chiedono veramente i costi, i servizi di base, e quindi c'è insomma ancora veramente un profilo sociale che con grande difficoltà fa questa trasformazione, ha voglia di fare questa trasformazione verso un online o comunque verso anche addirittura la carta conto, come tu la definivi, perché ancora se ne parla, la definivi, esiste, se ne parla ancora pochissimo. Detto questo, Massimo Roccia, volevo sentire di nuovo lei anche su quanto Francesca Tedeschi ci ha raccontato, come il conto corrente, una sorta di abbonamento alla banca. Assolutamente sì, si tratta ormai di un prodotto che è una piattaforma d'accesso ai servizi. E credo che la filatura attuale, quella che peraltro è stata poi recepita da Banca d'Italia nella riforma della trasparenza, sia forse un po' semplice, ma sia capace di indirizzare facilmente le persone. Ciascuno di noi sa benissimo se è un giovane, un pensionato, una famiglia, e quindi questo consente un primo passo estremamente semplice a profilarsi e a usare il prodotto più veloce per le proprie esigenze. Oggi sul nostro portale comparativo ci sono circa 1000 prodotti, praticamente tutta l'offerta del mercato, è uno dei migliori portali che esiste in Europa, consente di essere molto rapidi nel cercare il prodotto più efficace. Sulle carte prepagate, quelle appunto a cui si faceva riferimento, la grande novità è che ormai hanno un codice che consente di indirizzare su queste carte anche l'accredito degli stipendi, quindi consente un'operabilità piena, veramente completa, veramente comoda per le persone, è lo strumento principale dell'inclusione finanziaria. Ma quanta disponibilità c'è a questa trasformazione, Roccia, onestamente? Ma le banche la stanno spingendo. No, dico da parte dei consumatori. Molto spinto, e c'è stato un aumento lo scorso anno molto alto, e quindi credo che la risposta del mercato sia al momento molto positiva. Questo riguarda sia i giovani, ormai l'età di bancarizzazione sta scendendo intorno ai 15 anni, sia le persone anziane o le persone che solo in età avanzata entrano nel mondo del lavoro e si pongono problemi reali di gestione della liquidità. Quindi questo è il futuro, cioè operazioni fatte automaticamente presso quelle sale che ormai tutte le banche hanno prima di entrare nella parte di consulenza, con 5, 6, 8 macchine ATM multifunzione, e dall'altra parte invece carte prepagate che consentono a tutti, con delle cifre veramente direi quasi irrisorie, di avere a disposizione una chiave d'accesso sicura, comoda a tutti i servizi della banca. Allora, un paio di considerazioni di un paio di ascoltatori e poi ritornerei anche al nostro Nicola Borsi di Plus 24, Emanuele dalla provincia di Varese, visto che proprio Nicola prima aveva introdotto il tema delle normative antiriciclaggio a cui le banche devono ottemperare, di quanto questo costi loro, e allora siccome Emanuele vuole parlarci proprio del tema assegni, lo sentirei volentieri. Emanuele, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi richiamato. Volevo portarvi l'esperienza di mia figlia, che ha avuto un piccolo lavoro quest'estate, regolarmente retribuito, regolarmente registrato, a fine mese è stata pagata con un assegno. Al momento in cui si è recata in banca per riscuotere questo assegno, si è vista addebitare come spese di conto, come spese transitorie, non ho bene idea esattamente quale voce possa essere, si sono viste addebitare 3 euro per cambiare un assegno, visto che lei non ha un conto corrente perché è il primo lavoro e non ci siamo preoccupati di aprire questa carta conto. Cioè, si è vista praticamente togliere 3 euro su un'operazione. Per un'operazione una tanto, ma sì, assurda, Emanuele, ha ragione. Però il tema è che, come dire, Nicola Borsi, Nicola, torno da te. Comunque questi assegni prima o poi li vedremo sparire del tutto, e quindi si sta cercando di pilotare un po' tutti i consumatori, anche le aziende in questo caso, addirittura pagare per un lavoro modesto una persona con un assegno. Ma l'alternativa quale sarebbe stata? Far aprire, questa persona non aveva il conto, d'altronde dove avrebbero potuto mettere questo denaro? Ma qualche volta le alternative non ci sono. Gli assegni possono sparire, io lo ritengo un po' maturo come affermazione, nel senso che gli assegni, le tratte sono praticamente il pilastro dell'attività bancaria da quando esistono le banche nella forma moderna con cui le conosciamo, cioè da circa 7 secoli. Io penso una cosa un po' diversa, penso che in realtà le banche in questo momento abbiano dei seri problemi di redditività, come dimostra il fatto che tutti gli indicatori di bilancio dei gruppi italiani sono calati in maniera vertiginosa rispetto ai ROE, cioè al ritorno sul patrimonio, che era vicino anche al 20% di 3-4 anni fa, e attualmente stanno tra il 3 e il 5%, quindi si sono più che dimezzati. Questo è un problema che dipende dall'andamento di tutta una serie di variabili, la crisi, la recessione, i tassi di interesse al minimo che non danno alle banche quello spazio per giocare sul differenziale tra i tassi in entrata e i tassi in uscita. Basilea 3, tu lo ricordavi prima, sicuramente creerà un nuovo problema, perché aumentando la necessità di patrimonializzare le banche porterà le banche ovviamente a tentare di ridurre in tutti i modi i costi, e il denaro contante è uno di questi. Secondo me Roccia dice il vero, il dottor Roccia di Patichiari, quando dice che c'è stato uno sforzo enorme di trasparenza da parte dell'industria bancaria, e indubbiamente il consorzio Patichiari di questo sforzo enorme è stato ed è protagonista, e ci auguriamo che continui a esserlo anche in futuro con l'attenzione che ha dato negli anni scorsi. Però c'è un problema, il contratto di durata, e il conto corrente è uno di questi, è uno dei contratti che può essere modificato unilateralmente in maniera continua da parte degli istituti, con una sola comunicazione al cliente. Forse bisogna ricordare al cliente che il conto corrente, come i mutui, come tante altre forme di rapporto con le banche, si può cambiare, e che lo stesso Patichiari ha introdotto cambio conto, che è uno strumento per transitare da un conto che diventa più oneroso a un conto che lo è meno, con tutta la possibilità di dare la domiciliazione dell'utenza in automatico, di trasferire tutti i rapporti con molta semplicità e a costo zero. A costo zero in tempi prestabiliti. Tra l'altro, sulla modifica delle condizioni contrattuali, vi leggo anche qualche messaggio. Fabrizio da Maranello dice: la mia banca da oltre 6 mesi, non la cito, è una che in questo momento è sotto i riflettori per altre ragioni che non sono i costi dei conti correnti, mi sta chiedendo di rivedere le mie condizioni contrattuali, in quanto per me, evidentemente lo dice la banca, non convenienti. La modifica contrattuale consiste anche nel rinunciare al mio fido di 20.000 euro, azzerandomelo. È reale la loro proposta, Fabrizio? È reale, certo, perché gliel'hanno fatta. Il tema è se conviene a lei, se ha bisogno di questo fido. Evidentemente ha bisogno di mantenerlo aperto e magari si può discutere con un'altra banca un rapporto di questo tipo. Ovviamente c'è chi invece sposa completamente il canale online e ci continua a testimoniare quanto risparmio abbia portato a casa nel passaggio appunto all'home banking. E poi tanti altri, eccoci anche questo Edo da Vercelli che ci dice: 6,50 euro per pagare le spese condominiali nella stessa filiale dove è aperto il conto del condominio, e qua magari l'amministratore del condominio potrebbe trattare un po' meglio le condizioni bancarie. Insomma, si può trattare su tutto. Io questo non vorrei mai dimenticarmi di sollecitarvelo. 800 24 0024 è ancora il numero che vi dà invece l'opportunità di intervenire a Salva Danaio. Dopo i suggerimenti per chi è in viaggio sentiremo Vittorio da Roma. Vittorio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Dai, uno fa presente. Io ho un conto presso, non dico quale banca, non ho avuto mai problemi, non pago una lira perché ci sono conto. Penso che la faccenda si risolve perché è molto semplice, un conto da Oh, Vittorio, la sentiamo con difficoltà, però il tema è che lei ha un conto online, ha pochissime spese se non quasi praticamente azzerate, giusto? Lo pago solo le spese statali, 8,30 euro. Sì. Allora, così, teoricamente abbiamo capito anche di quale conto si tratta. Ha paura? C'è stato, come dire, una grande rivoluzione mentale che ha dovuto fare per passare a questo conto, Vittorio? Sono 70 anni, per cui mi sembra... Insomma, non è successo niente di grave. Vittorio, la ringrazio, la sento male, ma insomma era una testimonianza come di quelle che in tanti ci state scrivendo. Francesca Tedeschi, tra l'altro ti leggo anche un paio però di come dire irriducibili invece dello sportello, e ti leggo anche le ragioni per cui comunque il passaggio all'online ancora non viene, ma quante volte ne abbiamo parlato. Qualche conto online, ci chiede un ascoltatore, è assicurato contro i furti telematici? Nel 2008 ci sono stati almeno 1600 derubati in Italia, non so dove siano stati presi questi dati. Questo è il mio unico, come dire, impedimento mentale ad aprirlo. Un altro ascoltatore, Paolo da Vicenza, ci scrive invece: uso abitualmente l'home banking, la moneta di plastica, quindi la carta, il bancomat. Volevo sapere perché più esercenti, nella migliore delle ipotesi, si lamentano delle eccessive commissioni applicate loro dalle banche. Perché è così, Paolo, ed effettivamente qualcuno mette bello chiaro al di fuori dei propri negozi il fatto che non accettano ancora bancomat o carta di credito. Francesca. Allora, la prima domanda rispondo di sì, tutte le banche online, alcune molto virtuose, lo mettono proprio all'interno della propria pagina come offerta. Per pochissimi centesimi al mese assicurano anche contro le frodi. Tengo presente e continuo a ripetere che è più rischioso andare in banca in una filiale che essere derubati online. Questo statisticamente, visto che adesso oggi parliamo di medie e di statistiche. No, è che ricordiamo anche che mediamente... Però c'è la possibilità, quindi la risposta è sì e costa veramente molto poco. Seconda cosa invece, per quanto riguarda il discorso degli esercenti, che è un discorso amplissimo che noi faremo fra breve con il nostro rapporto prepagate, purtroppo è vero, ci sono alcune banche anche qui virtuose, non virtuose in questo caso, che fanno pagare molto gli esercenti, ma devo dire che attualmente, soprattutto con le nuove tecnologie, ci sono sia Mastercard sia Visa che stanno, diciamo, promuovendo moltissimi nuovi POS, quelli senza contatto, che sono gratuiti o con costi molto bassi, quindi favoriscono ancora una volta quelle famose prepagate innovative, sicure perché hanno il chip e soprattutto perché si possono anche utilizzare per, diciamo, piccolissimi spese, 25 euro massimo, senza nemmeno passarla per il POS. Quindi queste novità si stanno introducendo. Si tratta poi per gli esercenti anche qui di informarsi meglio, perché stanno facendo degli grandi accordi, ultimo un accordo adesso con una grossa banca e PayPal. quindi per pagare tutto sempre ancora una volta in maniera molto semplice online. Quindi l'innovazione, quello che voglio dire è che ormai quello che sta accadendo è che l'innovazione tecnologica corre talmente avanti che quel conto corrente che noi avevamo in mente non c'è più, e nemmeno i servizi di pagamento che avevamo in mente noi ci sono più. Ormai siamo molto più avanti. Lo so, per qualcuno magari è un pensiero insopportabile, però di fatto comunque stiamo andando verso questa strada. Forse Francesca Tedeschi è molto più avanti con questa rivoluzione mentale rispetto a molti di noi, e però insomma la strada è un percorso ormai intrapreso ed inevitabile. Vorrei sentire Egidio da Padova, perché invece ci racconta di un costo di un conto corrente che sta sopportando, che mi pare piuttosto alto. Egidio, che diavolerie di operazioni compie? Buongiorno. Sì, buongiorno. Si dica. Senta, io volevo chiedere così, perché da un po' di tempo ho visto che il costo è molto alto. È alto perché, diciamo, non che io faccia tante manovre, perché diciamo c'è un po' di custodia titoli, tutti i bolli, e poi magari scade qualche cedola, qualche così. E hanno messo attualmente la banca, ha messo anche quando scade una cedola, anche se ha un valore di 8 euro, magari un tasso variabile con un tasso molto basso, mette 1,05 euro ogni volta che anche che scade la cedola. Egidio, questo costo di 250 certo. euro non so se è giustificato, anche se certo. c'è qualche custodia. No, magari certo, lei dice ottiene qualche cedola anche da qualche investimento che ha fatto, il costo del conto titoli. Nicola Borzi, che si è materializzato in studio improvvisamente. Buongiorno. Gli vanifica tutto. Cioè, ma che, sì, è un tema questo del rapporto tra il risparmiatore e gli investimenti attraverso i conti correnti, che abbiamo analizzato proprio sull'ultimo numero di Plus, in uno speciale dedicato agli investimenti online, tra l'altro. Ne sono uscite delle belle, ne è uscito che c'è una grande discrepanza tra i costi dell'utilizzo dell'acquisto e della dismissione di titoli sul conto corrente da istituto a istituto, ma è uscito anche un altro dato molto rilevante, cioè che purtroppo un quinto di un campione di ordini, di 10.000 ordini di investitori retail effettuato attraverso le banche su borsa italiana, non ha ricevuto la best execution rule, cioè quella regola della MiFID, una direttiva importante che comporta che i costi vengano ridotti al minimo nel migliore interesse del cliente. Questo è un tema purtroppo molto forte, sul quale le autorità di vigilanza dovrebbero, come dire, accendere un faro, perché parliamo di costi che sembrano minimi, perché ad esempio questi ordini effettuati in borsa avevano un trattamento che era appena dello 0,0585%, cioè il 5 su 10.000 più alto, però ovviamente questo 5 su 10.000, se lo applichiamo a un euro non è nulla, se lo applichiamo a degli ordini in media da 10.000 euro sono quasi 6 euro di differenza. Alla fine comportano delle grosse differenze di costo per i risparmiatori e di entrata per le banche. Per le banche, naturalmente. Allora, 2 minuti di tempo prima di salutarci, chiederei telegrafico a Giovanni di raccontarci il suo caso, per poi concludere con Massimo Roccia. Giovanni. Salve a tutti, io sono un commerciante, provincia di Monza. Giovane, diciamo 36 anni, la mia esperienza è velocissima. Avevo un conto corrente in una banca locale, che è sufficiente così dire, non diciamo il nome. Dopo un anno che io ho fatto i cosiddetti, posso avere delle condizioni migliori, avevo solo 190 operazioni gratuite all'anno, magari sono tante, magari sono poche. Per la mia attività ho anche un sito online, erano poche. Per un anno ho pregato, supplicato, nessuno mi ha risposto. Quando ho chiesto alla signorina, scusi, come faccio a chiudere il conto corrente di botto? A questo punto parlo con il vice direttore, che non sapeva niente, ma no, ci aspetti dei mesi, parliamo con la direzione. Ho chiuso il conto, mi sono rivolto nel frattempo a una banca virtuale, che non faccio il nome, ma una molto famosa, molto aggressiva, mi hanno detto chiaramente, signor Giovanni, guardi, le condizioni sono... tanti euro al mese, tutto trasparente. La devo salutare, guardi, perché mi rimangono 40 secondi e qua mi tagliano clamorosamente. Massimo Roccia, concludo con lei. Non so se vuole commentare questo caso, ma insomma queste trattative le conosciamo bene, le abbiamo raccontate tante volte. Mi chiede un ultimo ascoltatore come si fa a calcolare l'indice sintetico di costo sul proprio conto corrente. Quindi chiudiamo con questa informazione di servizio, che so che tra l'altro è il vostro anche grande cavallo di battaglia di patti chiari. E la trova sul foglio informativo che la banca gli mette a disposizione, la trova a fine anno sul rendiconto che viene trasmesso dalla banca, la trova sul web al sito pattichiari.it, che può consultare gratuitamente 24 ore su 24, dove ci sono 1000 prodotti e per 1000 prodotti ci sono 1000 ISC corrispondenti classificati per ogni profilo. Benissimo, se Roberto non ha avuto, non è stato, se per Roberto questa risposta non è chiarissima, ci scriva e gliela metteremo per iscritto. Nicola, grazie per esserti catapultato dalla grazie macchina a Radio 24, ci risentiremo sicuramente presto. Grazie a Massimo Roccia, Francesca Tedeschi, Salvadanaio torna domani, buona giornata.